La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa passione nasce da bambina. La prima volta che sono andata a teatro sono andata dalle suore all'oratorio e c'era questa recita, proprio ero piccolissima, ed era Anna dei Miracoli. E io sono rimasta folgorata da questa bambina che interpretava questa cieca, no? Questa ragazzina cieca. E adesso si dice non vedente, però insomma il concetto è quello. E sono rimasta folgorata dal racconto, dal tipo di racconto, da come mi veniva raccontato tutto questo. Era magico, era affascinante, magico. Quella di questa sera è la prima volta di Marina Massironi, attrice che molti ricordano al fianco del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, qui nello sketch dei Bulgari A mai dire gol. Natalia! Ah, Tamor! Tamir! E Tamur dov'è? Ne manca uno. Bentornati. Buonasera Natalia. Bentornati a voi casomai. Come state? Grazie. È allegra? Sono felicissima, certo. Mi escono gli occhi dalle orbite. Sì, certo, attenzione che non schizzino via. Sarà un morbo forse. Attenzione. Ecco, che numero presentate? Sì, questo straordinario numero del mago Tamar, un delicato esperimento di mentalismo. Sarebbe deficiente con la bocca orribile? L'ha sì, fatto entrare con la sola forza del pensiero. No, che bravo. Ma come fa questo? No. Non è che c'è uno dentro? No, si vedevano dei piedi, ma figurati. Si vedeva una scarpa. Ed ora attenzione, perché il lillipuziano Tamir si è inserito. L'unico che può entrare lì dentro, peraltro, a sua misura. E ora? Attenzione al numero del torci collo. No, aiuto! Ma come fa? Che dolore! Una gavetta lunga, iniziata a teatro negli anni Ottanta al fianco dell'allora marito Giacomo Poretti. A lei, legnanese, classe 63, nel 2000 va il Nastro d'Argento e il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Pane e Tulipani. Sì, ho sempre avuto sfiga, io sin dall'inizio. La prima volta che uno mi ha mangiato è stato in un cimitero. Avevo 15 anni. Andavamo lì a farci le canne. Lui si chiamava Primo. Ma c'è sempre Primo. Abbiamo mollato anche un giorno l'altro per una che faceva le previsioni del tempo a tenebria. Non era quello giusto, dai. E Ettore allora sembrava così innamorato. Partiamo insieme per la Grecia e la sera stessa sul traghetto lo vedo che si bacia con un marinaio di Salonicco. Allora dico basta collega, mi sei rimasta. E invece incontro con un accendiparfumo. La si fa col fulmine. L'avrei seguito fino in Alaska. Solo che lui era di Chioggia, allora io l'ho seguito a Chioggia. E dopo un anno scopro che ha due donne, quattro figli da una e tre dall'altra. E fosse stato almeno musulmano. Così è meglio perderlo. O ancora al cinema è Anita, la madre di Margherita, in Pulce non c'è, un film che parla di autismo, un film bellissimo. Tu Pulce, parli amore, ma come balla la mia Pulce? Vuoi venire a fare un gioco bellissimo con la mamma e con Giovanna? Una prima volta che inizia tempo prima, quando ancora bambina, Marina assiste a uno spettacolo amatoriale e scopre la bellezza di imparare attraverso il teatro. Questa passione nasce da bambina. La prima volta che sono andata a teatro sono andata dalle suore all'oratorio e c'era questa recita, proprio ero piccolissima, ed era Anna dei Miracoli. Il semino è nato lì, poi dopo io l'ho sempre fatto, cioè l'ho sempre innaffiato, no? L'ho sempre innaffiato anche durante il liceo, anche durante la piccola pausa lavorativa che ho avuto in altro ambiente dopo il liceo, no? E fino alla scuola di recitazione e poi insomma fino a quando dalla scuola di recitazione poi mi hanno offerto la prima scrittura, ci hanno offerto a tutti noi che facevamo, c'era anche Giacomo in quel periodo per dire, no? Insomma, e quindi la prima volta poi è arrivata lì, insomma. Quando hai iniziato proprio a capire che era un lavoro, si stava trasformando in qualcosa di concreto? Esatto, ricordo la felicità che io vorrei che tutti i giovani provassero molto in fretta, senza arrivare ai 50 anni, cioè tra poco arriveranno al primo ingaggio a 50 anni, poveretti. Insomma, è la felicità di avere un ruolo, sapere che stai facendo qualcosa che è una tua passione, un tuo desiderio, che ti verrà retribuito, ti verrà riconosciuto in quanto tale. Quindi io ricordo la felicità quando mi hanno detto che insomma sarei stata presa in compagnia teatrale, quindi avrei cominciato il lavoro vero, finendo lo studio, no? La felicità che avevo, che provavo, che condividevo con tutti gli amici, andavo in giro a suonare campanelli e dire a tutti, oh, mi hanno preso in compagnia, lavoro! E quanti anni avevi più o meno quando è successo tutto questo? 20, 19, 20. Quindi sì, giovanissima. Poi da lì tu hai avuto tantissime altre, diciamo, deviazioni rispetto al teatro, perché poi c'è stato il trio, quindi cabaret, ma anche cinema. Però tu non hai perso, diciamo, la tua ricerca anche teatrale, come attrice teatrale. Sei riuscita a sganciarti anche da quei cliché che potevano intrappolarti? Sì, figurati. Cioè, io sono curiosa di questo lavoro e sono curiosa di tutto quello che si può fare, no? Perché è il vero lusso del lavoro di attore, è proprio quello di calarsi in più panni possibili, no? Quindi sì, se ti fanno fare continuamente le stesse cose, poi io mi annoio, certo. Ecco, semplicemente quello. L'esperienza col trio, ce la vuoi raccontare com'è stata? C'è stato un passaggio comunque importante nella tua carriera? Molto importante e molto divertente, perché sono stati 15 anni di lavoro insieme, di vita insieme, vita anche perché abbiamo lavorato talmente tanto, no? Tra le tournée, Mai dire gol, i film, quindi era proprio insomma, una condivisione quasi di vita. E, insomma, nessuno si è offeso, nessuno se l'è presa, se poi le nostre strade si sono divise. Insomma, io tra l'altro ero stata sposata e fidanzata nei vari film con tutti e tre, quindi non potevo ricominciare il giro, no? Tu hai parlato di Mai dire gol, ma anche di una certa comicità che c'era in televisione fino a qualche anno fa. Oggi cosa pensi della comicità che si vede invece in TV? Penso che ce n'è molta di più oggi di allora, e questo da un lato è un bene, da un lato può rischiare di saturare, no? Sì. Quindi di insomma ce n'è talmente tanta, tu giri su tutti i canali, no? C'è comunque un programma che insomma io preferisco la comicità presa a piccole dosi, magari in ambiti televisivi più ampi, ecco. I cataloghi, insomma gli elenchi, no, di comici, sì, così sono divertenti, per carità, però insomma si valorizzano forse un po' meno tutti quelli che ci sono dentro, no? Quindi però, insomma, è un segno dei nostri tempi, ti puoi andare a cercare comici dappertutto, no? Adesso anche sul web, no? Ma questo secondo te perché? No, sicuramente ce n'è bisogno, perché nei tempi duri c'è bisogno di ridere ancora di più. E poi c'è una bellezza, c'è un divertimento anche da parte di chi lo fa, no? Per cui insomma c'è una condivisione, la risata comunque è sempre un mezzo proprio fisico, fisiologico, per condividere subito anche delle cose molto serie, no? Anche delle cose che hanno uno spessore, cioè se tu le comunichi con una risata in modo leggero, arrivano senza ferirti, quasi sorprendendoti, no? E arrivano comunque puntuali, non è che insomma, poi in Italia a volte c'è anche un po' di snobismo, no? Nei confronti della risata, della commedia, anche nel cinema, no? Le commedie insomma non hanno lo stesso valore del film serio, insomma. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. La prima volta. a cura di Cristina Carpinelli. Quella di questa sera è la prima volta di Marina Massironi, la storia di una ragazza di Legnano con il sogno del teatro, con la voglia di far ridere e la curiosità di una bambina, una persona gentile e intelligente, una carriera lunga, talvolta faticosa, ma sempre coerente e alla ricerca. Attrice, doppiatrice, inizia la sua carriera in teatro nel 1984 al fianco dell'allora marito Giacomo Poretti, con il quale crea un duo cabarettistico. Poi negli anni 90 la Massironi è l'unica donna ad affiancare per 15 anni il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra film in TV, spettacoli teatrali e lavoro di doppiaggio, Marina cresce e si mette alla prova anche con i più grandi. È il caso dell'avventura teatrale con Dario Fo. Se mia moglie facesse una roba del genere, magari io le farei ingoiare proprio la scatolina di lamierino con tutta la chiavetta per aprire. E non ti venga in mente di sgarrare a sto modo, perché se solo vengo a sapere che hai fatto la raffa al supermercato o che ti sei permessa di pagare sotto costo anche una sola scatoletta di acciughe, guarda, io... Oh, ho capito, me la fai ingoiare con la chiavetta di traverso. No, peggio, faccio il fagotto e non mi vedi più, vado via di casa. E dove vai? Ah, beh, anzi, prima ti ammazzo e poi chiedo il divorzio. O al contrario, adesso ci penso un attimo. Io sono una paladina proprio del... A me piacciono tantissimo anche le esperienze drammatiche, però insomma riconosco il valore del comico, lo riconosco tantissimo e stimo tutti quelli. Ho lavorato con Dario Fo. Dario Fo era una persona estremamente rispettosa della comicità, lo prendeva seriamente lui. Ma quando hai lavorato con Dario Fo? Ho fatto uno spettacolo in teatro con lui, con Antonio Catania, abbiamo fatto praticamente un remake, adesso si dice così, di un loro spettacolo, di uno spettacolo di lui e Franca Rame degli anni 70, che era Non si paga, non si paga, sì. La nostra versione era Sottopaga, non si paga, ed era un testo, veramente, l'abbiamo fatto credo una decina d'anni fa ormai, 8-10 anni fa, è stata un'esperienza bellissima perché lui ci ha fatto la regia, quindi è stato con noi per tutto il periodo delle prove, giocava con noi sul palcoscenico, lui aveva proprio questo gusto del gioco, del, in scena, aveva un'energia incredibile, che aveva l'energia di tutti noi altri messi insieme, lo dovevi tirare giù dal palcoscenico perché dipingeva ogni giorno tutte le scene. Da sempre a proposito di teatro, da gennaio, dall'11 gennaio siamo al Teatro Carcano a Milano e ripartiamo con la tournée in tutta Italia, poi saremo anche a Roma tra febbraio e marzo alla Sala Umberto con questo spettacolo fortunato che abbiamo messo in piedi l'anno scorso con Alessandra Faiella e con la regia di Serena Sinigaglia, il testo di Edoardo Erba e il titolo è Rosalyn. Di cosa parla questo spettacolo? È un noir, una specie di thriller psicologico, ma con una grande commedia anche dentro, perché comunque si ride, insomma c'è anche un aspetto divertente, ma è intrigante, è uno spettacolo con molto mistero e molto intrigo, con una storia ambientata tra l'America, tra gli Stati Uniti e il Canada, ed è, insomma, c'è un omicidio e c'è questo incontro fra due donne molto diverse tra loro, che sono una scrittrice americana di best seller che è Alessandra Faiella e questa Rosalyn, che è un'umile donna delle pulizie. Tra di loro nascerà, insomma, uno strano rapporto che poi, insomma, si chiarirà strada facendo. Non possiamo mai dire niente di questo spettacolo quando lo presentiamo. Beh, però qualcosa si riesce. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. E dunque dal teatro al cinema alla televisione Marina Massironi continua a crescere qui in Tre Uomini e una Gamba, suo film d'esordio. When this world will be mine, I will kill the people. And I will be by myself with my mage nation. And I will facessimo un bel bagno? No, vabbè ragazzi, simpatia, va bene, abbiamo scherzato, si gioca, vi ho fatto anche guidare la macchina, però siamo già in ritardo, non scherziamo, Siamo ormai ai saluti e dunque vi lasciamo in compagnia del finale di Chiedimi se sono felice. Ci risentiamo domenica prossima alle 23. Il podcast di questa puntata è sulla pagina di Radio 24, cercate La prima volta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. I soliti vandali hanno danneggiato una statua della piazza, naso e orecchio. Avete individuato i malviventi? No, quelli sono ragazzi, una baby gang. Come si fa? Non è che mi posso mettere a sparare di notte con la pistola, no? Disgraziati. Vabbè, domani quando vieni al comando poi stendi il rapporto. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. È andata. A posto. Bravo. Come ha detto che si chiama lei? Si chiama Marina. Guarda, è veramente esagerata. So neanche cosa mi stia succedendo, sento tutta una roba allo stomaco, non so. Tra l'altro la prima volta che l'ho vista non mi ha fatto nessun effetto, Invece oggi ha aperto la porta con quegli occhi lì azzurri e pam, sono rimasto secco. L'amore è così. Come quando vede uno posteggiato in doppia fila, no? La prima volta passi, ma la seconda sono 160.000 lire di multa. Vabbè, ti dicevo che non so, ho come un'energia nuova, mi verrebbe voglia adesso di andare lì sotto casa, non so, a tirarle i sassolini sui vetri, non so, suonare il citofono, farle una bella serenata per colpirla, capisci? Una serenata? Dove abita? Via Guerrazzi. Numero? Al 2, perché? C'è il lavaggio dalla strada. Non si sente niente, è fastidioso poi, Peccato perché era una bella idea. Vabbè, ciao Antonio. Magari ci vediamo. Facciamo una partitella? Sì, sì. Oh, mi raccomando, non fare i bastioni perché stanotte asfaltano. Ma va a cagare. Dentro al replay, tra miliardi di altri ci sei e non hai scia, luminosa d'auto anche di periferia, come i sogni che farai o prenderai a noleggio quando ti addormenterai con le scarpe sul letto. Dentro al replay, con la testa girata un po' in su, da fotografia ci sei anche tu, prima di andare via. Se rimango ancora qui è come se morissi, e guardandomi allo specchio ad un tratto sparissi. Cadono le stelle, sono cieco, e dove cadono non so. Cercherò, proverò davvero ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando dappertutto anche in me, ti vedo. dentro al replay. Per un attimo c'ero e anche lei, ma in quel momento qualcosa ho cancellato, si è fermato il tempo. La sua regolarità è come se morissi, è sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi. Cadono le stelle, allora è vero, e io non so se ci sarò, dove andrò non lo so, se lo merito o no, se correggerò gli effetti, i miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, ti telefono domani, e più sarò lontano e più sarò da te. Dimenticato e muto, come uno che non c'è, tornerò, tornerò, davvero, a sentire su di me profumo delle mani, di notte io farò sogni tridimensionali, senza chiedere mai niente al mondo, neanche a te. Senza chiedermi perché, ti vedo dappertutto, anche me, ti vedo dappertutto.